Ibrahim ha 8 anni e 8 ferite sulla schiena e la sua pelle che è bruciata sembra pece. La sua famiglia è morta sotto un palazzo di Bassora mentre l'inferno precipitava giù dal cielo. È stato un mese in ospedale senza però poter guarire. Non c'era acqua, niente letti e medicine. La notte non si addormentava perché spesso ricordava le urla di sua madre. I suoi occhi ancora osservano donne che piangono, case che esplodono, i soldati ancora sparano, ma la libertà non si ottiene con la morte. Andrew ha 21 anni e 21 proiettili nel corpo, è sdraiato sulla strada fissa al vuoto. Il suo sangue scorre sulle mani degli amici impazziti che si disperano uccidendo. Tutte le sere si ubriacava e poi gridava alla luna per farsi forza, per scacciare la paura. La notte spesso ricordava quel che il padre gli diceva: caro Andrew, la guerra non è un gioco. Nei suoi occhi ancora si vedono pozzi che bruciano, bimbi che gridano, i soldati ancora sparano, ma la libertà non si ottiene con la morte. Scende su Baghdad, la capitale, tutti quanti hanno paura di morire per una bomba, un kamikaze o per un colpo di fucile, per militari ubriachi e disperati. E i signori della guerra non lo vogliono capire, le bombe uccidono e non portano consiglio. Mentre parlano in diretta, mentre si fan fotografare, l'Iraq non si lascia addormentare. Non si lascia addormentare. Non si lascia addormentare.